Capitolo tredicesimo dell'anno 3000, un sogno di Paolo Mantegazza. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico, letto da Claudia Caldi. Capitolo tredicesimo. Maria era da più giorni di pessimo umore. Le meraviglie di Andropoli che essa vedeva per la prima volta la distraevano per qualche ora, ma poi ripiombava nella solita tristezza. Dico male, essa non era triste, né poteva esserlo. Amava Paolo con tutto il suo cuore, con tutto il suo pensiero, ed ora si stava realizzando il sogno più alto della sua vita, quello di visitare la capitale planetaria, facendo nello stesso tempo il giro del mondo. No, non era triste, era impermalita, dispiacente, contrariata. Paolo, che era avvezzo a vederla sempre serena, passando i suoi giorni da un sorriso ad un altro sorriso, le aveva chiesto già più volte: «Ma che cos'hai, amor mio? Ti senti male? Ti senti stanca? Vuoi forse riposarti per qualche giorno dalle nostre continue escursioni?» Ed essa rispondeva seccata con quel piglio che rende quasi sempre impossibile l'insistenza della domanda: «Non ho nulla, mi sento benissimo». Un giorno però alla domanda Paolo aggiunse anche le carezze e a tante forze alleate messe insieme essa non seppe, essa non poté più resistere. «Ecco qui perché io sono di cattivo umore. Tu mi hai detto sempre che la prima prova di amarsi e di vivere una vita sola in due era quella di non avere il più piccolo segreto l'un per l'altro e mi hai ripetuto non so quante volte che la prima bugia detta dalla bocca di un amante all'amato lacera la concordia e mette in pericolo l'amore. Tu lo sai che io dal giorno che ti dissi son tua, non pensai cosa che tu non sapessi un'ora dopo, né provai una sola volta una gioia o un dolore che subito dopo non fosse anche tuo. E anche tu, Paolo mio, mi hai aperta tutta quanta l'anima tua, ma mi hai però detto che ti riservavi un piccolo segreto, che però non era una colpa, ma che non me lo avresti rivelato che ad Andropoli. Di quel mistero io non mi sono mai offesa, sembrandomi che non era che un ingegnoso artificio per farmi desiderare qualcosa di nuovo, a me, che vivendo con te non avevo più nulla a desiderare. Ma ormai siamo in Andropoli da 2 mesi e tu non mi hai svelato il tuo segreto. Ed ho sempre aspettato e aspetto ancora, ma ormai la curiosità è divenuta impazienza e l'impazienza è divenuta dolore e mi tormento e mi martello sospettando che il segreto non sia un mistero ma una colpa che non hai il coraggio di confidarmi, temendo forse che in me diminuisca la stima per te che è grande come il mio amore. Esso non è una colpa, è almeno una debolezza e tu, che sei il forte dei forti, hai paura che nello specchio della tua anima tersa e brillante come l'acciaio io non veda una macchia». Paolo stava a sentirla e sorrideva, baciandole le mani e accarezzandola nei capelli. «Pazzarella, mattacchiona mia cara, non ti sapevo così sospettosa e permalosa. Io ti ho promesso di svelarti il grande segreto, l'unico che io mi abbia per te ad Andropoli, ma non ti ho però detto in qual giorno te l'avrei rivelato, se appena giunti o più tardi o magari l'ultimo giorno, quello della nostra partenza». Tu vedi dunque che non ho mancato di parola né dimenticato la mia promessa. Orbene, il giorno della rivelazione è giunto e te lo annunzio ad alta voce, solennissimamente. Domani avrai il mio segreto nel giorno della proclamazione del premio cosmico. E a qual'ora di questo giorno e in qual luogo? Nell'ora della proclamazione nella grande sala dell'Accademia. Maria saltò al collo di Paolo e allegra come un puledro in festa lo baciò più e più volte. Il malumore, la displicenza erano volati via, s'erano sfumati come nebbia mattutina fugata dal primo raggio di sole. Per tutto quel giorno la sua allegria accumulata e non spesa per tanti giorni si scatenò tutta quanta, inondando di pazza gioia anche il suo Paolo. Ballarono, saltarono, si rincorsero come fanciulli. La gioia è sempre giovane e nelle sue forme più belle è anche infantile. E Paolo e Maria, per tutto quel giorno e la mattina appresso, ebbero sempre fra tutti e due non più di 16 anni. L'Accademia di Andropoli è il più alto istituto scientifico del mondo. Conta 100 membri presi dalle più lontane regioni e formano, direi, un vero senato della scienza. eletti dal libero voto di tutti i pensatori del mondo, rappresenta tutte le branche delle scienze, delle lettere e delle arti, e non hanno altro obbligo che di trovarsi in Andropoli una volta l'anno e precisamente il 31 dicembre, quando i segretari delle diverse regioni presentano la storia scientifica, letteraria e artistica dell'anno, ciascuno nella disciplina che gli è affidata. Ritornati alla loro patria, corrispondono con l'Accademia per rispondere ai diversi problemi che sono affidati al loro studio. 30 fra loro sorteggiati risiedono per tutto l'anno nella capitale, dove hanno splendidi alloggi. Il loro onorario è di 500.000 lire all'anno. Ogni 10 anni si riuniscono tutti quanti per distribuire il premio cosmico e che viene conferito a colui che abbia fatto la più grande scoperta di quel decennio. Il premio è di 1 milione di lire e colui che lo guadagna ha diritto di sedere nel Consiglio Supremo del Governo e prende il titolo di Sofo, l'onorificenza più alta in tutto il mondo e uguale soltanto a quella del Pancrate. Nell'anno 3000 si chiude appunto un decennio dall'ultimo premio e i concorrenti sono 150. Era appunto all'indomani del giorno in cui Paolo e Maria avevano avuto il dialogo da noi riferito che si doveva conferire il premio cosmico e i nostri viaggiatori si recarono all'Accademia, che trovarono affollata da 100 curiosi venuti da ogni parte del mondo per assistere alla gran festa della scienza. La città è tutta imbandierata, le botteghe tutte chiuse e nella piazza musiche variopinte riempiono l'aria di deliziose armonie. Entrando nella gran sala delle assemblee, Maria vide con grande stupore che Paolo andò a sedere con lei nei posti riservati al Pancrate e ai suoi ministri in 2 grandi seggiole dorate. «Ma Paolo mio, perché mai ci sediamo qui? Non sarebbe meglio confondersi col pubblico e sedere là nel fondo, dove potremmo senza soggezione conoscere e osservare ogni cosa?» «No, Mariuccia mia, perché è il posto che mi spetta, ed io ho potuto ottenere dal presidente che anche tu sieda qui accanto a me. E oggi è qui che ti sarà svelato il mio segreto, l'unico mio segreto.» Maria tacque e rimase immersa nell'estasi di una grande meraviglia, di un grandissimo stupore. Intanto la sala si andava affollando sempre più e una musica deliziosa confortava in tutti la fatica dell'aspettare. A un tratto la musica cessò, si diffuse all'intorno un silenzio solenne e i membri della presidenza presero i loro posti, sedendo fra i 100 senatori della scienza. In mezzo ad essi, in una poltrona più alta, sedeva il presidente, che portava al collo, sospesa da una catena di palladio, una grande medaglia d'oro, che stava a dire che egli aveva riportato altre volte lo stesso premio cosmico che si stava per conferire. Il presidente si alzò e, dopo aver dichiarata aperta la seduta, invitò il segretario generale a leggere la relazione sul premio cosmico e noi la riassumeremo per sommi capi. I concorrenti al premio cosmico dell'anno 3000 sono 150. Un primo lavoro di analisi dei lavori presentati li ridusse subito a 50. Più difficile fu il lavoro della seconda cernita, perché in quelle 50 scoperte e invenzioni molte avevano un valore reale, ma poi per volta i 50 divennero 3 e dei 3 non fu troppo difficile scegliere l'1, essendo riservato agli altri 2 il secondo e il terzo premio. L'ingegnere inglese John Newton ha inventato una trivella gigantesca mossa da una nuova macchina elettrica che ci permetterà di perforare tutto il nostro pianeta giungendo al centro della Terra. Potremo così conoscere la vera struttura del globo, fin qui divinata ma non conosciuta, e chissà di quali nuove forze potremo disporre nell'avvenire. L'invenzione è di una straordinaria importanza e perciò abbiamo dato all'ingegnere Newton il terzo premio. Lo invito a recarsi alla presidenza per ricevere il premio. L'ingegnere Newton era seduto accanto a Paolo, si alzò e, recatosi al banco del Sofo, ricevette un diploma e una medaglia. La musica intonò le sue armonie e tutti gli astanti si alzarono ad applaudire il premiato. Il segretario continuò a leggere la sua relazione. Il celebre astronomo Carlo Copernic ha perfezionato talmente il telescopio da permetterci di vedere gli abitanti dei pianeti più vicini. Questa invenzione segna un'era nuova nella storia della civiltà e, permettendoci di allargare i confini del mondo conosciuto, accrescerà all'infinito i tesori del nostro pensiero, lasciandoci anche sperare che in un tempo non troppo lontano noi potremo metterci in relazione coi nostri fratelli planetari. Si trovò quindi ragionevole e giusto di accordare il secondo premio all'astronomo Copernic. E qui nuovi applausi e nuove armonie. Dopo che Copernic ebbe ricevuto il premio, vi fu una lunga pausa di silenzio e di aspettazione. Quel silenzio esprimeva l'infinita curiosità di sapere chi mai avesse potuto fare una scoperta ancora più grande, perforare la Terra da parte a parte, comunicare direttamente con gli antipodi e spiare la vita degli abitanti di Venere, di Mercurio, di Marte. Che cosa vi può essere mai di più grande? Il segretario riprese la parola. La terza scoperta, signori e signore, e di certo la più grande, è quella dello psicoscopio, strumento che ci fa leggere facilmente i pensieri dell'uomo verso cui si dirige. Prego il signor Paolo Fortunati di Roma a voler venire al banco della presidenza per dimostrare praticamente come agisce il psicoscopio. Maria a queste parole si sentì battere il cuore forte forte, guardò Paolo che dopo averle stretta una mano convulsivamente le disse all'orecchio «Ecco il mio segreto». Si alzò e salito a fianco del presidente dell'accademia si levò di tasca un piccolo strumento a guisa di un doppio cannocchiale di tasca e lo rivolse verso il pubblico. Il silenzio era stato grandissimo appena il segretario aveva parlato. Ma ora un gran rumore di seggiole smosse, di gente che si alzava, turbò la serena pace di quel luogo sacro alla scienza. Era il rumore di molti che improvvisamente lasciavano la sala, perché avevano paura che si leggessero i pensieri che in quel momento passavano per il loro cervello. Paolo, benché in quel momento fosse estremamente commosso, non poté a meno di ridere a quella fuga tumultuosa. Appena si ritornò al silenzio dell'aspettativa e più nessuno si mosse, Paolo rivolse il psicoscopio verso un fanciullo sui 10 anni che stava seduto accanto alla sua mamma e poi «Ecco là un fanciullo che pensa con grande dolore che egli si sta annoiando in questa sala ascoltando discorsi che non intende, mentre a casa sua i suoi fratelli giocano a palla nel giardino. Egli dirige mentalmente a tutti noi delle maledizioni». Tutta l'assemblea scoppiò in una risata omerica. Paolo diresse allora il suo strumento qua e là, come se cercasse qualcuno o qualche cosa, in modo da non far capire dove si fermasse più a lungo. Non accennerò ad alcuno in particolare, ma io leggo in più di 10 fra le persone qui convenute un grandissimo sdegno per la solenne ingiustizia commessa a loro riguardo dai nostri accademici. Essi avevano concorso al premio cosmico e non l'hanno conseguito. In uno di essi poi leggo anche pensieri orrendi di odio e di vendetta. A queste parole il tumulto di prima sorse di nuovo più violento. Alle sedie smosse e cadute di chi abbandonava la sala si unirono grida irose. «Profanazione, profanazione, abbasso il psicoscopio!» Paolo rimase imperterrito e il presidente suonò più volte il campanello invocando silenzio e pace. Intanto la sala si era vuotata più che mezza e il segretario poté ripigliare la sua relazione. L'Accademia ha creduto a voti unanimi di conferire il primo premio al signor Fortunati perché se le due altre scoperte ci allargano le frontiere del conoscibile, il psicoscopio ci promette un'era nuova di moralità e di sincerità fra gli uomini. Quando noi tutti sapremo che chiunque può leggere nel nostro cervello, faremo sì che pensieri e opere non si contraddicano e noi saremo buoni nel pensiero come cerchiamo di esserlo nelle opere. È a sperare che col psicoscopio la menzogna sarà bandita dal mondo o almeno sarà un fenomeno rarissimo che si andrà perdendo del tutto, come tutte le funzioni e gli organi che non hanno più uno scopo necessario o utile. E lasciamo da parte tutti i vantaggi che potrà recarci il nuovo strumento nella diagnosi delle malattie mentali, nell'educazione, nella psicologia. La scienza del pensiero entrerà ben presto in un nuovo mondo e di certo è assai più utile all'uomo il conoscere se stesso che il centro della Terra o gli abitanti degli altri pianeti. Da che l'uomo è comparso sulla Terra, egli ha fatto immensi progressi nelle scienze, nelle arti, nelle lettere, in tutto ciò che riguarda la vita del pensiero. Ma nella moralità il progresso è ancora molto addietro e non è punto in armonia con quello della mente. Il psicoscopio ci promette di realizzare questo sogno di tutti i secoli, quello cioè che il progresso morale sia parallelo a quello intellettuale. E siccome tutti crediamo che il primo per la felicità degli uomini sia molto più importante dell'altro, ecco perché l'Accademia ha creduto di dover assegnare il primo premio al signor Paolo Fortunati che ha inventato il psicoscopio. Tutti quelli che erano rimasti nella sala perché non avevano paura che il terribile strumento ottico leggesse attraverso il loro cranio alcuni pensieri malvagi, si alzarono in piedi applaudendo fragorosamente il fortunato vincitore del premio cosmico e che anche nel suo nome portava quasi il vaticinio della sua gloria. L'unica persona che non si alzò era la più felice e la più commossa. Era Maria, che si nascondeva il volto nel fazzoletto per celare le lacrime di una gioia infinita che la inondava tutta quanta dal capo ai piedi. Paolo intanto era sceso dal banco della presidenza, era ritornato al suo posto e là le lacrime di due felici si univano insieme, confondendosi nell'estasi di un'ebbrezza sola. Tutti i presenti guardavano commossi quel gruppo dei due felici, persuasi che l'abbraccio di quella donna in quel momento, in quel luogo, era il premio più alto e primo della scoperta immortale di Paolo. Pochi giorni dopo, Paolo e Maria, dopo aver avuto l'alto consenso del Tribunale Sanitario di Andropoli per unirsi nel matrimonio fecondo, ne ricevevano nel Tempio della Speranza il sacramento solenne ed amanti, che lo erano già da vari anni, diventavano marito e moglie, avendo acquistato per consenso della scienza il più alto dei diritti, una volta concesso a tutti nei tempi barbari, quello cioè di trasmettere la vita alle generazioni future. Fine di l'anno 3000, un sogno di Paolo Mantegazza.